Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. La notte di Capodanno ovviamente la viviamo in diretta, la viviamo dai nostri studi qui su Resto Radio Convento, come ogni festa, come ogni weekend che passiamo qui al convento di Ronato del Garda. Allora, siamo in compagnia di una coppia di ragazzi che sono venuti qui a raccontarci qualcosa ai nostri microfoni. Allora, benvenuti, come vi chiamate? Adriano. Tommaso. Adriano e Tommaso, molto bene. Da dove venite? Tione di Trento. Anche io. Tione di Trento, ok, che è vicino, immagino, a Trento? Madonna, sì, vicino anche a Madonna. Ah, Madonna di Campiglio, quindi zona scistica. Quasi scistica. Ok, siete appassionati di sport invernali, non ve ne frega nulla? No, andiamo spesso. Vi piace? Andiamo spesso. Ma stagione lunga o, cioè, da quando iniziate fino a quando riuscite ad arrivare? A parte che adesso con la neve artificiale, c'è anche, va anche più avanti. Solitamente metà novembre, poi quest'anno c'è andata bene con la neve. Ok. A marzo. Fino a marzo si riesce. Fino a marzo si riesce, andare, si riesce ad arrivare. Ma noi alla fine non frega tanto della neve. Portate i rifugi che sono aperti. Ah, i rifugi. Esatto, bere. Poi i rifugi. I rifugi tra una sciata e l'altra, che ridanno energia e forza. L'importante è anche perché la ricarica in più. Poi si mangia e si beve sempre molto, molto bene nei rifugi, no? Nonostante. Cibi tipici. Cibi tipici, bravo, bravo. E voi quindi cosa fate? Sci, snow, cosa vi piace fare? Sci. Sci, preferite lo sci. Entrambi sci. Ok, da tanti anni? Sì, da quando siamo piccoli, dalle elementari. Non avete mai smesso. Ok. Appunto, ma siete della categoria prende, va, impara o lezione col maestro? Tutti lì? Qualche lezione l'abbiamo fatta, però abbiamo i fan. Ci sono i fan fuori da qui che. Sì. Quindi qualche lezione Lezione l'abbiamo fatta, poi siamo sempre andati per conto nostro. Si impara sulla pista, no? Facendo, andando. Ok. E come va col turismo? Cioè c'è gente che gira? Tanta gente. Sì? Molto. Bene. Voi questa sera siete qui con amici, con fidanzate? Sì, siamo con una decina di amici. Abbiamo fatto un taxi, siamo venuti qua anche a cena. Ah sì, okay. Molto bello l'ambiente anche. Bene, dai. Serata diversa, veramente bello. Molto bello. Bene. Quindi è la prima volta che venite qui. Sì. Bene. Allora, felici che vi siate divertiti e abbiate conosciuto anche la nostra realtà. Volete approfittare per fare gli auguri a qualcuno, per mandare qualche messaggio? Sì, mandiamo gli auguri magari ai nostri amici di Chiosa, che sono solo noi. Auguri a tutti e grazie mille. Speriamo che la compagnia tenga duro ancora per molti anni. Esatto. Soprattutto Charlie, che è il nostro grande amico. E vi mandiamo grandi auguri da qui, vedendoci nei prossimi giorni, sperando in lunghi anni di amicizia. Morte insieme e via, dai. E festeggiare questo 2020. Bene, dai. Voi a Tione cosa fate? Studiate ancora? Lavorate già? Studiamo economia tutti e due. Economia? Io a tre. Ah, ok, quindi tu ti sei spostato. Beh, pare che ti sei spostato praticamente di nulla, perché è vero. Trasporti è abbastanza comodo. E strano però economia come scelta, come mai? O avete già un percorso fatto in testa? Tutte e due alle superiori abbiamo fatto amministrazione, finanze e marketing. Eravamo insieme in classe. Roba tosta, quindi. Eravamo già indirizzati. Roba tosta. Avete, ripeto, un sogno, un percorso già in testa lavorativo o prendete un po' quello che poi capiterà? Forse qualcosa di preciso ancora no, però si vedrà, dai. Intanto il percorso è in alto, però le aspettative sono dopo È giusto, è giusto. È sempre in alto, dopo è giusto sognare. Poi vediamo. L'obiettivo è sempre alto. Certo, è giusto sognare, è giusto porsi obiettivi importanti e insomma, così vediamo, bisogna dai. Lavorare bene per raggiungerli. Per arrivare al top. Dai. Appunto. Va bene, dai. Allora in bocca al lupo ragazzi, grazie per i vostri auguri e grazie per essere venuti a trovarci e averci conosciuti. Speriamo di rivedervi e ritrovarvi presto in altre occasioni. E ancora grazie, buon anno e a presto a questo punto. Grazie. Ciao. A te, arrivederci. Ciao.